Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno e grazie per essere con noi. Apriamo insieme una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'ospedale Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Ogni settimana noi scegliamo un titolo da mettere in copertina. E il titolo di questa settimana è Fatica. Professor Mencacci, ma che fatica! Sì, stiamo facendo veramente una grandissima fatica. Aumenta il senso di esaurimento delle risorse, ma soprattutto aumenta quel senso di isolamento sociale, di solitudine, di paura, fattori che incidono in maniera negativa e facilitano lo sviluppo di disturbi psichici di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, ed è soprattutto la solitudine che genera da un lato alterazioni fisiche, riduce la solitudine nel nostro assetto immunologico, ci espone molto di più a fattori infiammatori, aumenta il rischio di patologie e di decadimento cognitivo. È un tema fondamentale. È un tema fondamentale perché viene ben fotografato da tantissimi studi. La pandemia ha e sta avendo anche un forte impatto sul nostro versante emozionale. Stiamo avvicinandoci anche ad un periodo che è molto delicato, lo è sempre stato, quello delle festività natalizie, no? Ecco. È un periodo sicuramente molto più delicato, dove le persone aumentano sia la loro solitudine, questo dobbiamo pensarci, ma ancor più il sentirsi soli. Ci sono stati studi recentissimi che hanno messo in mostra come la solitudine lasci un marchio nel cervello, come oggi attraverso degli studi di brain imaging sia possibile riconoscere il cervello di una persona sola, o meglio che si sente sola, da quelle che non sono in queste condizioni. E lo si vede da che cosa? Lo si vede fondamentalmente dal fatto dell'attivazione di alcuni circuiti cerebrali, hanno un nome di default network, che fanno sì che la persona sia fondamentalmente attratta da pensieri intimi, da ricordi, ma tutto ciò che la tiene lontana dal presente e da uno sguardo al futuro. Quindi è un ripiegamento su se stessi, e questo espone a sua volta a una serie di sofferenze, soprattutto di carattere depressivo. La depressione è spesso causata da solitudine, uno studio importantissimo di poco tempo fa, ed è questa fame di socialità e di questa assenza di poterla anche praticare che è a sua volta causa di alcuni comportamenti assolutamente poco prudenti. Ecco, professore, che sembrano irrazionali, ma come si possono spiegare? Il fatto che la maggior parte del tempo in questo periodo molti di noi hanno incontrato i propri cari soltanto per via telematica fa sì che vi sia una tale frustrazione che deriva da questo isolamento sociale, che attivi, e questo è uno studio molto importante, attivi gli stessi circuiti neurali del desiderio di cibo quando si ha fame. Cioè, quindi l'isolamento provocherebbe un desiderio di interazioni sociali come quello per il cibo. Questo è un tentativo di dare una spiegazione a dei comportamenti assolutamente poco prudenti e irrazionali, ma dobbiamo tenere conto per contrastarli e far sì che le persone mantengano quell'atteggiamento di estrema prudenza e di estrema sicurezza. In un recente convegno voi psichiatri avete analizzato la figura del reduce del Covid, che ha delle similitudini con il reduce della guerra. Beh, l'esposizione delle persone che sono state colpite da Covid ci fa comprendere come un caso su 5, cioè quindi una percentuale molto alta, cioè il 20% di queste persone ha dei sintomi psichiatrici, cioè mostra ansia, depressione, disturbi del sonno, ma anche sintomi di carattere neurologico, quello che viene chiamato il brain fog, quella nebbia cerebrale che accompagna le persone per diversi mesi. Queste le persone che ne sono state colpite, quindi uno su cinque, e poi a questo si aggiunge poi la popolazione generale. Non dimentichiamoci che il 63% dei nostri cittadini, secondo questi studi europei, ha manifestato sintomi emotivi che durano per più di 15 giorni. Quindi il tema della pandemia emotiva è un tema che deve essere tenuto all'ordine del giorno, soprattutto per la gestione dei comportamenti della popolazione. E di cui bisogna parlare, bisogna fare rete, non bisogna nascondersi, bisogna chiedere aiuto. Professor Mencacci, ho sentito una sua intervista in cui lei affermava che il 42% degli italiani sarebbe a rischio di ammalarsi di ansia post-traumatica per lutti, perdite, per il danno economico, per l'incertezza, per la mancanza di progettualità. Sono numeri impressionanti, non riguardano naturalmente solo il nostro paese, perché il problema è a livello mondiale. Professor Mencacci, io immagino lei non possa darmi in un minuto la ricetta per superarlo, ma ci dia un consiglio da spendere nella nostra quotidianità. Dobbiamo soprattutto mantenere quella capacità di pensarci come un grande gruppo di lavoro. Il grande gruppo di lavoro, ciascuno fa la sua parte, non entra in competizione, non espone gli altri a delle situazioni pericolose. Oltre ad attivare questa parte di rete sociale, noi siamo un cervello sociale, della nostra grande differenza, dobbiamo far sì che la possibilità di saper rispondere all'incertezza, perché il tema di fondo è come metterci nelle condizioni di convivere con l'incertezza senza generare danni. Il primo scopo è comunque quello sempre di mantenerci in una buona salute fisica. Insisto su questo perché il tema dell'attività fisica, che sembra a volte così banale, è un tema cardinale sul quale dobbiamo contare. Quindi manteniamoci in salute, l'attività fisica può proteggere anche, professor Mencacci, il nostro equilibrio emozionale. Poi non solo lo protegge, ma ci mette nella condizione di aumentare la nostra resilienza e soprattutto di imparare da queste esperienze, di saper calibrare le nostre capacità predittive anche tenendo conto delle incertezze. E soprattutto quello, Nicoletta, che lei ricorda sempre: non chiudetevi, non state sole, condividete, perché tutte queste situazioni possono essere affrontate e la nostra servizio di poterle affrontare insieme. Grazie professor Mencacci per essere stato con noi. Grazie a voi, buon fine settimana. Le auguro una buona giornata e tanti auguri. Tra poco ci raggiunge il nostro Andrea Vitali per una bellissima storia. Restiamo insieme, dai. Obiettivo Salute Weekend. E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. Ma quanto ci piacciono le storie, quanto vi piace questo appuntamento, vi ringrazio di cuore perché ci state scrivendo in tantissimi. Sono storie magnifiche quelle che ha scelto Andrea Vitali, che è in linea con noi e che vi piace tanto pure lui. Ciao Andrea! Buongiorno, ciao Nico, buongiorno a tutti. Tra storie e Andrea Vitali, io non so chi vinca nel cuore degli ascoltatori di Obiettivo Salute Weekend, sta di fatto che Andrea, noi riceviamo tantissime mail. E quindi anche noi, perché noi crediamo molto nel potere della storia. Da storia nasce storia e le storie anche di ieri possono aiutarci a guardare l'oggi in modo, non lo so, dimmelo tu Andrea. Ma in modo anche positivo, insomma, oggi abbiamo bisogno di speranze, naturalmente. Bravo. All'interno di queste storie la speranza la possiamo trovare. Allora noi partiamo con un'altra storia. Allora oggi chiudiamo in bellezza, perché in bellezza abbiamo cominciato, abbiamo aperto questa piccola serie di storie che lasciano sempre una traccia. Quindi torniamo al tanto amato mito, e questa volta tocca all'Alcesti nella versione di Euripide. Il protagonista maschile della tragedia si chiama Admeto, che dopo non poche difficoltà riesce a sposare questa bellissima principessa che si chiama Alcesti. Però lo stesso giorno delle nozze, entrati nella loro camera, vedono una cosa terribile: il talamo è occupato da un viluppo di serpenti, ed è un'immagine appunto terribile e scioccante, ma è anche un segno che deve essere divinato. E il responso non è dei più benevoli, poiché significa che il fresco sposo è destinato a una morte precoce. Nel mondo del mito, spesso gli dèi corrono in aiuto degli esseri umani, come accade in questo caso, poiché Admeto ha, per così dire, un credito con Apollo. Chiamato in causa, il dio gli assicura che può aiutarlo a schivare la morte, a patto che trovi qualcuno disposto a morire invece sua. Impresa non facile trovare un simile volontario che spinge Admeto a chiedere un sacrificio siffatto a uno dei due genitori ormai anziani, e dai quali ottiene sprezzanti risposte, accuse di vigliaccheria, in sostanza un netto rifiuto. In effetti la vita è cara a tutti, ovviamente, ma quando ormai quindi sembra che il destino di Adme sia irrimediabilmente compromesso, segnato, ecco che succede una grande cosa. Alcesti, sua moglie, si fa avanti offrendo se stessa e accettando il dono che Apollo ha fatto al suo marito. Attenzione, un dono che, essendo di origine divina, non può essere rifiutato e che quindi segna irrimediabilmente il destino della giovane sposa e madre. Quando però tutto sembra avviato alla funesta conclusione di questa vicenda, ecco che spunta una figura particolare, quella di Eracle, l'eroe di mille imprese. È un inserto questo che fa Euripide addirittura comico, quasi grottesco. Eracle è gioviale, allegro, affamato, entra nella casa di Admeto senza rendersi conto che gli si sta celebrando un funerale, mangia e beve, fino a che un servo a un certo punto, un po' irritato dal suo comportamento, lo informa. Ecco allora che a quel punto Eracle compie un'altra delle sue imprese, ritorna in sé e, per non smentirsi, affronta Thanatos, la morte, e gli strappa la giovane sposa, che tornerà sulla terra velata e silenziosa per almeno 3 giorni, secondo l'imposizione degli dèi. Andrea, come ogni sabato, ti chiedo di raccontarci perché hai scelto proprio questa storia e quale spunto, quale suggerimento, quale idea, suggestione può suggerirci. Ma la scelta mi è sembrata obbligatoria, visto il periodo che stiamo passando. Diciamo, l'offerta di Alcesti di morire al posto del marito può essere paragonata, diciamo, a tutti coloro, penso a medici, infermieri, che hanno perso la vita addirittura, diciamo, per assistere un sacco, diciamo, di ammalati, ma penso anche a coloro che sono riusciti a vincere la morte riportando quindi in stato di buona salute un sacco di persone ricoverate. Ma c'è anche un'altra ragione, anche più profonda, che mi ha sempre avvinto in questa tragedia, che il professor Maurizio Bettini, in un suo magnifico libro, ha raccontato: la donazione, questa immagine estremamente moderna, il donare sé, il donare un organo di sé per far vivere un altro. E in ultima analisi c'è anche questo silenzio finale di Alcesti quando ritorna, un silenzio che può essere interpretato variabilmente, ma anche un silenzio che può essere la cognizione della vanità di molte cose, diciamo, della nostra vita dopo che hai visto l'aldilà. Andrea, ci ha ascoltato? ascoltato in silenzio il nostro prossimo ospite, un amico a te molto caro, il professor Franco Minonzio, filologo classico, storico della scienza, con una lunga esperienza di insegnamento nei licei. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, anche a lei. Ciao. Buongiorno, ciao Franco. Professore, è una tragedia? Ma l'Alcesti è una tragedia particolare perché narra una storia di un amore a lieto fine. È un dramma controverso già per gli antichi. Aristotele nella Poetica afferma che lo scioglimento del nodo tragico avviene con il passaggio del protagonista dalla felicità all'infelicità, e invece in questa tragedia avviene esattamente il contrario, con il ritorno di Alcesti nel regno dei vivi. È un dramma modernissimo innanzitutto perché è la prima meditazione sul tema della morte che noi abbiamo nella cultura occidentale, e Euripide affronta questo tema senza dare una propria soluzione univoca, ma dialettizzandolo, fornendo cioè dei punti di vista differenti sulla vicenda. Il tema si può anche declinare esattamente come diceva Andrea poc'anzi, cioè: può un uomo dare la vita per un altro uomo? Ecco, le risposte che vengono date all'interno dell'Alcesti sono diverse. C'è la risposta della tradizione eroica: non solo può un uomo, ma deve dare la vita per un altro. C'è la risposta della filosofia contemporanea di Euripide: può se è pazzo, ma se è savio non deve. C'è la risposta della tradizione religiosa, olimpica: può dare la vita, ma è inutile, perché la morte incombe su tutti. E infine la quarta risposta, che è quella fondamentalmente in cui Euripide crede, è quella della filia, cioè dell'amore, no? Un sacrificio è impossibile, perché o tutti e due devono morire, oppure nessuno dei due può sacrificarsi, il che poi nel caso della tragedia chiama in causa un espediente finale, quello della risurrezione. Alcesti era già morta, Alcesti ritorna, strappata da Eracle alle braccia di Thanatos. La modernità poi di questa tragedia non si arresta qui. C'è per esempio questo scontro violentissimo tra il padre e il figlio, tra Ferete e Admeto, ed è uno scontro in realtà non di caratteri, è uno scontro di concezioni della vita. Si può dire che è lo scontro tra la verità dei valori incarnata da Admeto e la verità dell'utile che è incarnata da Ferete. Ad un contempo un altro tema su cui aveva richiamato l'attenzione Umberto Curi in un suo libro bellissimo è il tema dell'ospitalità, cioè perché Admeto riesce a ottenere dapprima dalle Moire di non morire grazie all'intercessione di Apollo, e poi da Eracle che la sposa già morta venga strappata all'Ade. Lo ottiene proprio grazie all'ospitalità. Ecco. Prego. No, professore, a parte che noi quando eravamo al liceo e studiavamo le tragedie greche eravamo forse troppo giovani, non capivamo fino in fondo l'opportunità che ci veniva dato, e riprendere in mano i classici è sempre un bel esercizio. Certo. Anche e soprattutto quando raggiungiamo un'età matura riusciamo a leggere tra il significato profondo, e questa è l'Alcesti, un'opera di eccezionale intensità poetica. Io sono molto contenta che Andrea Vitali l'abbia scelta per questo sabato, e sono grata della sua lettura, che ci fa vedere la ricchezza di questa tragedia, che ci dà degli spunti che sono ancora oggi attuali. Andrea, un regalo grande il professor Minonzio. Beh, certo. Ce lo mettiamo grande sotto l'albero di Natale. Sì, io vorrei rileggermi le tragedie con lui, finalmente capisco. Andrea. Sì, no, è un regalo grande, devo dire, anche perché ci ha dato un ventaglio di interpretazioni, diciamo, di questa magnifica tragedia, che tra l'altro racconta anche il carattere assolutamente particolare di Euripide, che tra i tre grandi tragici greci è uno un po' particolare, un po' discosto, uno che ha avuto uno sguardo abbastanza singolare, diciamo, sul mondo greco dell'epoca, tant'è che si è meritato poi gli insulti di Aristofane, sia da vivo sia da morto. Professor Minonzio, io la ringrazio per essere stato con noi. Voi. Torni a trovarci, perché riesci a raccontarci tutte le sfumature. E noi abbiamo bisogno di questi frammenti che arrivano dalle storie, perché sicuramente uno dei tanti frammenti che lei ci ha dato può esserci utile per, come si dice, no? Per affrontare con un pochino più di positività le nostre giornate, trovare il bello, come lei ci ha fatto fare nella tragedia di Euripide. Grazie al professor Minonzio, grazie ad Andrea Vitali. Ci mancherebbe, grazie a voi come sempre. Noi ci sentiamo domani, sempre a mezzogiorno, per la bufala in tavola. Si avvicina al Natale, facciamo due considerazioni insieme, ci prepariamo per bene. Andrea Roccabella, lo sapete, l'ho già salutata, ma lo ringrazio nuovamente. Io credo che in queste giornate così faticose dire un grazie in più o un sorriso, anche sotto la mascherina si vedono gli occhi che sorridono, fa bene a tutti. Proviamo. Buona giornata, buon sorriso, e noi ci sentiamo domani. C'è Laura Vanossi in assistenza e redazione, che ringrazio. A domani.